Italia in controluce. Benvenuti da Daniele Biacchessi nella nuova settimana di Italia in controluce, i reportage e gli approfondimenti della redazione di Radio 24 sulla cronaca italiana, sulle mille storie italiane. Come straordinaria è l'esperienza di un gruppo di rock italiano che ha deciso di viaggiare l'Italia a bordo di un camion per raccontare il paese del lavoro. Andrea Satta, come nasce il progetto Tété de Bois? Tété de Bois nascono una giornata d'inverno di 18 anni fa, con un concerto sotto la statua di Giordano Bruno. Avevamo fermato un Robi Vecchio, un rigattiere, con un vecchio camion. Il nostro sogno era fare concerti ambulanti. E l'abbiamo convinto a venire con noi e lui guidava il camion, questo tipo, lo fermammo su una tangenziale romana e gli diamo qualche soldo e ci portò il camion. E poi alla fine gli chiedemmo se ce lo voleva vendere e lui per 900.000 lire ci vendette il camion, che poi noi abbiamo riverniciato, è diventato il nostro palco. Il vostro palco, perché il viaggio è uno dei progetti cardine della vostra musica, del vostro modo di comunicare. Eh sì, poi quella sera, insomma, lì fu una... vennero anche i vigili, volevano sapere se avevamo l'occupazione suolo pubblico. Noi gli abbiamo fatto notare che, essendo su gomma, al massimo potevano farci il divieto di sosta, che ci fecero, però abbiamo scoperto che l'ambulanza è un valore. L'Italia l'avete girata in lungo e in largo. Che Italia è quella dagli occhi di Tété de Bois? Sai, guarda, ci siamo chiesti questo proprio quando abbiamo deciso di fare il progetto Avanti Pop, questo viaggio che ancora continua nel mondo del lavoro e che ora tutti vedono molto bene che cosa vuol dire, no? Conoscere le realtà dal di dentro. È un'Italia in grandissima difficoltà, anche per pagine drammatiche che non si chiudono mai. Io penso a come abbiamo affrontato e come abbiamo conosciuto tutta la storia dell'amianto, alla Fibronit, alla Materit, all'Eternit, o come abbiamo conosciuto la situazione dei cantieri di Monfalcone. Quindi è un'Italia che molto spesso lotta con la quotidianità, ogni giorno c'è qualcuno che vuole levare un pezzo di diritto a qualcun altro. E la musica può cambiare oppure smuovere le coscienze o provocare anche solo rabbia o indignazione? Ma guarda, questa è la domanda, no? Infatti è sempre il quesito che ci si fa, diciamo, da 40 anni, dalla generazione degli anni 60 fino a oggi, no? Tutti quelli che, anche oltre adesso, anche noi che comunque che si occupano di interpretare, di amplificare quello che succede nella società, si sentono fatta questa domanda. Io dico che intanto è ascolto, intanto il nostro andare nei posti è ascolto. Noi non è che andiamo a fare un concerto perché sappiamo come stanno le cose, noi andiamo in un posto conoscendo magari le persone, entrandoci, bussando, chiedendo permesso agli operai e ai lavoratori, poi troviamo il modo di raccontare un po' la loro storia che loro stessi vogliono che si racconti, e su quello poi si costruisce l'incontro, che poi alla fine certo diventa una serata e un concerto. Quanti chilometri avete fatto in Italia? E quanti motori abbiamo fuso? C'era un periodo che avevamo una rete di meccanici fidati da nord a sud, uno in Romagna in particolare, prima ci invitava a pranzo e poi ci apriva il cofano del motore. Tantissimi, Daniele, tantissimi chilometri. E in questi chilometri avete però in 18 anni visto anche un'Italia cambiata. Un'Italia cambiatissima, perché intanto sono cambiati gli spazi per la musica, no? Per esempio, quando abbiamo iniziato, anche se sembrano sempre anni molto domestici, ma quando abbiamo iniziato noi nel 92 con i Tété de Bois, nelle città si suonava dappertutto, c'erano molti più spazi, e ora di spazi dove si fa musica ce ne sono molti, ma molti di meno. Noi abbiamo viaggiato sempre con questa idea di crearlo lo spazio, di pensarlo, perché poi il nostro camion è andato nelle fabbriche dismesse, ma nelle stazioni abbandonate, sui percorsi che speriamo possano diventare ciclabili, per cui è sempre stato anche il senso di di far diventare luoghi da interpretare spazi che hanno avuto fino a quel momento tutto un altro destino. Abbiamo fatto i concerti sulle corriere, negli ascensori del Ministero delle Finanze a Bercy, nelle metropolitane di Berlino, sui tram a Berlino. Il nostro modo è sempre stato quello di dire: questo non è uno spazio per la musica, ma in un modo l'arte ci può entrare, proviamoci. Quanto contano i luoghi? I luoghi raccontano la vita, la fatica, la poesia, il sogno, la speranza di chi li calpesta ogni giorno, di chi ci si siede sopra. E pensare che dopo uno spettacolo, un intervento, per chi ci ritorna il giorno dopo, quel posto non sarà più lo stesso, ma avrà aggiunto una pagina, è molto affascinante. Italia in Controluce, prima edizione, quella dalle 6.30, termina qui. www.radio24.it, il luogo dove potete riascoltare tutte queste voci che vi trasmettiamo in due edizioni, 6.30 e 13.30. Torniamo oggi proprio alle 13.30 su Radio 24.